ormai non si compra più per i men, si compra il Corriere della Sera, quindi tra le foto, ma soprattutto si leggono certe conversazioni e uno si accontenta, insomma. Bastonere 20 invece di prendere Playman, non so quelle altre riviste tutte patinate, il Corriere della Sera è anche serio, uno mentre se va in tram con Playman ha dei problemi e se ci va il Corriere della Sera è una persona seria, quindi non si deve vergognare, insomma. Personalmente sono convinto che dire la verità su queste cose è la scelta più felice, cioè è vero, io sono andato a letto con la signorina X e questi sono fatti miei, questo io la vedrei così, dire no, la signorina X, con la signorina X abbiamo recitato il rosario e non ci crede nessuno, insomma, no, questo, io penso che nelle situazioni di emergenza ci vogliono dei governi di emergenza e dunque, per esempio, non necessariamente si deve fare da parte Berlusconi, ma certamente un governo di larghe intese farebbe bene in questo momento dell'Italia. Con Berlusconi? Beh, questo dipende dagli accordi politici che sono molto complicati. Io penso che il Presidente del Consiglio debba essere un politico.